Buonasera a tutti! Hanno bruciato il centro sociale Cartella e questa volta l'hanno fatto veramente sul serio, non sono le solite bruciatine alle quali eravamo stati tristemente abituati. L'hanno bruciato e la cosa che più ci fa paura non è tanto l'atto in sé, perché questi sono atti ai quali noi siamo tristemente abituati, purtroppo. Quello che ci fa paura è quello che hanno bruciato, che hanno pensato di bruciare, è quello che hanno voluto impedire ed è tutto ciò che stava in questo luogo fisico. 10 anni fa è stato occupato, io 10 anni fa ero giovane ma c'ero e provavo un'emozione forte, un'emozione molto simile a quella che provo adesso e vuol dire che è un'emozione bella. Quando vado in giro, quando incontro persone mi dicono sempre «Sì, vabbè, ma per voi l'andrangheta è dappertutto». L'andrangheta c'entra sempre a Reggio Calabria. Voglio vedere le mani a tempo. Sì. Yeah, ehi. Sogno un colpo di stato organizzato in strada. Insurrezione popolare armata. Nuova intifada, gente barricata. Gioventù, ogni blocca la Mr. DJ. Ehi. Come Cartella voglio sentire un urlo al mio 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ho la radio nell'in-ear. Ehi. Sì, questa è resistenza sonora. Quotidiana e permanente. Ehi. Yeah. Sogno, colpo di stato organizzato in strada. Insurrezione popolare armata. Nuova intifada, gente barricata. Gioventù incazzata, ogni frontiera bloccata, dalla Sicilia alla Basilicata, dalle campagne donne un giorno qualunque, faranno i nomi degli infami e metteranno il fuoco dentro i bunker, la loro voce darà voce a chi ora tace, e l'ultimo boss sarà l'ultimo uomo di pace, la libertà non si conquista senza le armi in mano, come Cuba con Battista, dimmi chi è il terrorista, fottuto giornalista, la mafia è nella casa del padrone che paga la tua rivista, un solo grido e stavolta non è allo stadio, il suono dei ribelli passa in radio, racconta che un pentito vuole protezione, ma chi protegge il mio popolo da ingiustizia ed oppressione? È un clima di tensione, gli occhi dei vecchi sanno chi ha mentito, ma l'overtà alle volte è l'unica speranza per chi ha sentito, e anche gli sbirri bruceranno la divisa con la dignità accisa, se non c'è più tempo per ripensamenti orese, niente politichese o finti pacifismi, la democrazia borghese, qui si libera il Cartella. Qui si fa la storia, pugni in alto e resistenza sonora. Non abbassare la tua testa, tu non farlo mai. Non devi dargliela per vinta, no, non farlo mai. Se senti vento di rivolta, te ne accorgerai. Ora è sempre resistenza. No, io no che non mi arrenderò. Col fucile io camminerò. Sulla strada per la libertà, senza terra non sa da toccare. Perciò ogni giorno io combatterò. L'unica cosa che so, sulla strada per la libertà, io non ne dico nessuna pietà. Mentre il presidente mente al PM di Milano, ad Arcore è nascosto il vero Provenzano. Se dici che la mafia è un'invenzione di Saviano, la camorra ricicla il denaro nel Vaticano. È chiaro che ha perso la voce, non ha capito che un leone non va a caccia prima di aver ruggito. Se la testa non ti basta per abbattere il nemico, spara ora, perché il tuo tempo non è finito. Se ho latitante a Reggio, un Cristo che impone arbitrio, tu non affidarti al cielo se l'inferno è un suicidio. Mentre chi governa vende armi e vittima al cecchino, antimafia dorme nella villa del padrino. Se la rivolta piange negli occhi del tuo vicino, sarà il fuoco di un brigante a illuminare il tuo cammino. Se ogni giorno chi ha paura muore con il suo destino, io morirò una volta sola come Borsellino. Io morirò una volta sola come Borsellino. No, io no che non mi arrenderò. Col fucile io camminerò. Sulla strada per la libertà, senza terra non sa da toccare. Ogni giorno io combatterò, questa è l'unica cosa che so. Sulla strada per la libertà, io non ne dico nessuna pietà. E resistenza sonora, in strada e sulla scena. Scrivo e controinformo contro il cloroformio del sistema. Si combatte il suono, butta giù le maschere. 3/4 del music market non ha carattere. Nuovi guerriglieri, briganti come ieri. Non voglio boss ma nemmeno sbirri e giustizieri. Battaglie strada come a Santa Clara. E una maglietta di Guevara vale solo quanto l'hai sudata. Passa parola come si passa la giolla.

for life, a fare resistenza in questi tempi bui, sempre a testa alta senza farci fottere. Zen, perché conosciamo il significato delle cose che facciamo e conosciamo il significato degli spazi occupati. Non ci arrenderemo mai, come il centro sociale Cartella. Non ci fermeremo mai, siamo ribelli for life. A Reggio Calabria, in una città per certi versi triste come Reggio Calabria, un centro sociale, un unico centro sociale, è importantissimo. Anche se non ti chiami compagno, anche se non sei un militante, è importantissimo nella misura in cui promuove controinformazione, controcultura, promuove un'alternativa all'omologazione imperante di una città che, omologandoti negli usi, nei costumi, nella discoteca e nei lidi sul lungomare, ti omologa da tutti gli altri punti di vista. Ti omologa quando tu vuoi sapere prima quando esce un bando, lo vuoi sapere dal tuo amico politico che vuole il voto e che poi farà l'imbroglio per te, lo vuoi sapere quando vuoi un favore. Ma qui si parla di diritti e un centro sociale serve anche a ribadire il concetto che i diritti sono sacrosanti e i favori non sono nulla, sono il motivo del degrado di questa terra. Vai DJ! Sì, ma sei il solito meridionale. Fanno bene a chiamarti in un modo. Errone. Fermala. Che tra l'altro poi c'è da ricordare che da questa terra se ne vanno a flotte. Se ne vanno perché studiano fuori, cercano opportunità lavorative fuori. Vanno fuori... E poi molti cercano un attimo di omologarsi, di sembrare settentrionali, ma li sgamano sempre, li chiamano in un modo ben preciso. Come ci chiamano al nord? Terroni. Come cazzo ci chiamano? Terroni. A me hanno chiesto, ma a Reggio c'è la DSL? Mi hanno detto, Terrone, c'è la DSL. Come ci chiamano? Terroni. Vai, DJ. Sto coito interrotto. Allora. Scusate, bisogna spostare una 600 che è parcheggiata proprio qua davanti. BP 115 DR va spostata subito. Vedete di chi è, per favore. Non sono Francesco Salvi, siamo sempre calmi. Vai. Voglio la vostra collaborazione a dire Terrone. Ovunque vado mi chiamano Terrone. Ovunque vado, ovunque vado, ovunque vado mi chiamano Terrone. Terrone. Ovunque vado mi chiamano. Ovunque vado, ovunque vado, ovunque vado mi chiamano Terrone. Meridionale che vota la Lega Nord con i parenti in Argentina, Australia e Nova York. Non ho lavoro ma ho certi amici che mi basta dargli un voto e fanno l'impossibile. Una telefonata e non faccio più la fila, offro caffè con assegni da 5.000. Se mi confondono con quelli senza una lira, non hanno visto la mia villa sulla riva. Ma più passa il tempo, più ci danno dentro, più mi sgamano in un momento. E più tento di essere come loro, e più veloce poi mi sgamano in coro. Ovunque vado mi chiamano Terrone. Ovunque vado, ovunque vado, ovunque vado mi chiamano Terrone. Terrone. Ovunque vado mi chiamano. Ovunque vado, ovunque vado, ovunque vado, mi chiamano Terrone. Meridionale che mi faccio i fatti miei e a testa bassa pago il pizzo ogni 26 e tiro avanti con ogni promessa che ogni politico fa speculando su di me. E ci avremo l'acqua dal rubinetto, ma per adesso il serbatoio sul tetto la butterò in fretta nel cassonetto. Quando ci sarà il ponte sullo stretto, rimanderemo i marocchini a casa loro, che sono loro che ci fottono il lavoro. Vengono qua, pregano là e poi vanno in Marocco e si fanno le proprietà. Ovunque vado mi chiamano. Ovunque vado, ovunque vado, ovunque vado mi chiamano Terrone. Ovunque vado mi chiamano Ovunque vado, ovunque vado, ovunque vado, mi chiamano Terrone. Terrone. Ok, cartella, perché il cartella siamo noi. Al mio tre voglio sentire un urlo, che lo ricostruiamo solo con la voce. Siete pronti? Uno, due, tre! Ovunque vado, mi chiamano Terrone. Ovunque vado, ovunque vado, ovunque vado, mi chiamano Terrone. Terrone. Ovunque vado, mi chiamano Terrone. Ovunque vado, ovunque vado, ovunque vado, mi chiamano Terrone. Ovunque vado mi chiamano, ovunque vado mi chiamano, ovunque vado mi chiamano. E cazzo, ma perché mi chiamano Terrone? Non lo saggio. Vai. Stop. Perché un centro sociale di periferia può dare tanto fastidio? Perché? Perché ci sono persone che hanno preso a cuore una causa e l'hanno fatta prendere a cuore anche ad altre persone, così la causa è diventata importante, è diventata una causa della gente del territorio e non solo dei militanti. E noi ci abbiamo scritto un pezzo una decina di anni fa. Vai DJ! Sullo stretto, no, no, se si va alla rovina, solamente mare in buca, Reggio e Messina. Te lo dico no, no, al ponte dico no, te lo dico no, no, al ponte sullo stretto, no, no, no, se si va alla rovina, solamente mare in buca, Reggio e Messina. Mister politico, sai chi voglio parlare? Di quello che per te sicuramente lo va a fare, tra tutte le promesse la campagna elettorale. Ora vorresti mettere il cemento in questo mare, lo stretto non si tocca e la mia gente già lo strilla. Niente ponte, no, Traccari di Escilla. Ehi, sulle mani cartella, adesso Duma l'accendino brucia. Ehi, dico no, no, al ponte dico no, io dico no, no, al ponte sullo stretto, no, no, se si va alla rovina, solamente mare blu tra Reggio e Messina. Io dico no, no, al ponte dico no, io dico no, no, al ponte sullo stretto, no, no, se si va alla rovina, solamente mare blu tra Reggio e Messina. Perché non porta lo sviluppo invece genera trimali? Dai finanziamenti a strade, scuole, ospedali, ma dal mio panorama, ehi, tieni giù le mani, in questo mare siete con gli squali. E se pensi che io faccia slogan, allora dimmi chi ci lavora, chi ci specula sopra, chi paga ciò che provoca. Un ponte tra le sponde danneggia l'ambiente e lo logora. Boom! Io dico no, no, al ponte dico no, io dico no, no, al ponte sullo stretto, no, no, se si va alla rovina, solamente mare blu tra Reggio e Messina. Dico no, no, al ponte dico no, io dico no, no, al ponte sullo stretto, no, no, se si va alla rovina, spot elettorale in vista delle regionali, è un regalo di Natale per mafiosi e criminali. Ma ha detto un architetto che è sbagliato anche il progetto, cantieri come squarci nel cuore dello stretto. Certa gente non capisce che sarà un'apocalisse, altri contano i profitti sull'asse delle ascisse. Se tornasse Ulisse in questo mare che farebbe? Prenderebbe i suoi guerrieri e come ieri lotterebbe. Se tornasse Franco Nistico cosa direbbe? Uniti nella lotta è il bene della nostra gente. Voglio risposte concrete senza retorica, da Giampilieri alla 106 Ionica. Piccia una voce, una coscienza deve dirlo, è solo un monumento al presidente del consiglio. E intorno a noi ci sta un milione di persone che dice no al ponte. Cantatela come questa voi. Canzone dico no, no, io dico al ponte sullo stretto, no, no, se si va alla rovina, solamente mare. Sullo stretto, no, no, se si va alla rovina, solamente mare brutta Reggio e Messina. Grazie massicci. Avevo pensato di mettere in fallo. Sta andando no. Right? Gente preparata, gente militante. Cosa ci riserva il destino? Allora, immaginate che noi fossimo con la chitarra, no? Prima di fare questo brano faremo questo intermezzo. Ehi. No, no, no, in tono perché non sono cantante. Amo posate chitarre e tamburi, perché sta musica sa da cagna. Simma brigante facimmo paura. Ehi. Hey, hey, hey, hey, briganti, 150 anni dopo in questa terra si continua a fare resistenza contro lo stesso oppressore, ha cambiato solo nome. Hanno portato il chitarre e tamburi, perché sta musica sa da cagna. Basta sumare sta danza su soli, senti sta voce di serialità. Si obbligante facendo paura, e come profona di ma cantare. Non ce ne fotte di fosse i padroni, a delle nostre non sa da giocare. Parola vera, la posta è alta come tela, lirica Guernica, apocalisse la mia tela. Che fiducia, oggi che nessuno è più al sicuro, carta brucia, Fahrenheit 451, Reggio Calabria dove sole sempre state, dove volano molti proiettili e poche minchiate. La gioventù che resta pensa solo a sé nella merda, fuma più erba di Dottor Tressi che urla, perché nessuno sta a sentire, spinge forte, perché è affamata da morire. I nostri sguardi sono i soli che non cambiano. Ascolto Bob canta War in a Babylon. Combattiamo come abbiamo sempre fatto, pugni alti che vi in faccia come nel 94. Fogli coi pensieri, sogni e desideri. Scusate ma non canto il vostro inno di Mameli. Hanno portato il chitarre e tamburi, perché sta musica sa da cagnare. Basta sumare sta gange e sto soli, senti sta voce di serata. Sei una briga che facimmo paura, e con microfono prima cantano. No, non ce ne fottere, tu sei padroni, a terra nostra non sa da toccare. Se l'ansia del futuro è un sole scuro su sta terra, l'oggi buca l'atmosfera tipo effetto serra. Per la mia gente non c'è volto, non c'è maschera, nessun Barack Obama, di che possono farcela. La città che sorride coi giornalisti dice crucifiggi a troppi poveri cristi. Ed il presente a volte genera i suoi drammi, a volte dà in mano un microfono a un ragazzo a 15 anni. Ogni giorno sopra il corso celebra i suoi dei, ogni notte canta il blues come Lady Day. E non c'è stadio, non c'è droga, non c'è via d'uscita, la vita scorre come sangue da questa ferita. Mille colori insieme fanno un solo grigio, passa un pezzo in radio, dice Losing My Religion. Ah, spengo la radio, mi gioco quel che ho, chiudo un'altra strofa, Chantan Babylon. Hanno portato chitarre e tamburi, perché sta musica sa da cagna. Basta stumare sta canta e sto soli, senti sta voce, vista in realtà. Si ma prima che facimmo paura, e con microfono prima cantano. Non ce ne fosse di fosse padroni, a terre nostre non sa da toccare. Se nasce brigante se muore, e fino all'ultima vima lotta, e se morimmo lottate non sciore, una bestemmia per sta libertà, una bestemmia per sta libertà. Hey, hey, hey, hey, ok. Allora, Edo, qui c'è un mio amico con il quale tanti tanti anni fa facevamo i murales. Il nostro quartiere Sbarre, il nome non è a caso, ci sembrava troppo grigio, noi facevamo i murales. E lui fa anche il beatbox. Se vuoi fare il beatbox, lo facciamo. Un applauso a Painter, Street from Sbarre Centrali, e sin... Human, ragamuffin, mi sei. Ehi, bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam Soldato, dammi solo una ragione, solo una spiegazione per giustificare tale assurdità. Uccidi per difendere la patria, per questo lei ti paga per dimenticare la tua dignità. Soldato, dammi solo una ragione, solo una spiegazione per giustificare tale assurdità. Uccidi per difendere la patria, per questo lei ti paga per dimenticare. Ehi, dimmi qual è il tuo nuovo nemico, dai, tanto la tua guerra non finisce mai. Tu devi dire sì signore, ma ignori la ragione per la quale sei un criminale fino a che non morirai. Ehi, ehi, su le mani massicci, grazie a Painter, DJ, The Next Tune. Se c'è una rivolta permanente giù nelle strade di questa città, ora si può, ma il tempo si fa più veloce. Vieni con noi e fai sentire la tua voce. Questa città non è mai stata così bella. Siamo un fiume in piena che va ska, ska! Sulle mani, hey! With the town and tell the people, cartella leaves, right? Perché? Palazzo, c'è chi mente alla gente e non vede mai troppe. Sono troppe le domande a cui nessuno mai risponderà. L'eredità di quelli che stanno al sicuro, eccola qua, è una generazione al buio. Se siamo qua è per riprenderci il futuro prima che lo prendano per noi. E ti diranno che non servono le idee, tu non dargli ascolto mai, se ciò che è giusto è ribellarsi. With the town and tell the people, coming through here, yeah, Yo. Ti dicono che non puoi pensare ciò che non pensano loro, che devi restare a casa in fretta e poi trovare un lavoro. Ma se c'è un lavoro è precario e non ha orario, sì se c'è un lavoro è un sicario per il salario. E all'università hanno fatto zazza, alla cultura zazza, ora che la riforma è stata fatta, tutti laureati con la zappa. Ora battono la fiacca e le camionette sbagliano la piazza. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via! Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via! Che mi sento di morire. Hey, hey. E ti diranno che non servono le idee, non dargli ascolto mai, se ciò che è giusto è ribellarsi. With the town and tell the people, sulle mani cartella, Reggio si fa resistenza, Gallico. E quando dico bella voi mi rispondete ciao, bella, bella. E quando dico bella voi mi rispondete ciao, bella, bella. Detto questo, però nonostante tutto, nonostante un ignoto attentatore metta fuoco a un centro sociale in maniera molto organizzata, è stato calcolato che è stata una menzurata giriare qui quando a Reggio di sera una menzurata a farti i cazzi tuoi, non puoi giriare, perché c'è un controllo, e ha lasciato svastiche rosse accanto a scritte Viva Francisco Franco e cose varie. Però la nostra, stavo coglioniando infatti, la nostra resistenza è anche una forma di amore verso una terra che ci dà poco, ma alla quale noi, penti ribelli, dobbiamo dare tanto. La terra ci dà tanto! Oh. Sono gli uomini che cacciano, la terra dà solamente. Vuole fatica e dà soddisfazione, è vita. Terremo un seminario, ma adesso facciamo un brano che si intitola Calabria mia. Si era prestata una mia amica per cantarla interamente, ma non voglio creare scene di panico. Dai. Stanno andando in un'altra. Yeah. ai ai ai ai ai. Lord mercy, Lord mercy, Calabria mia, dammi la forza per restare qua, Calabria mia, dai la speranza a chi se ne va, Calabria mia. Non ti hanno detto mai la verità, i racconti dei vecchi briganti e dei, hey, come cartella. E sputerò in faccia a questi signori che spacciano i diritti come fossero favori, che stanno sulle spalle i loro santi protettori. Possono ammazzarci tutti, ma senti, non ci faranno fuori. Chi stella canzoni, di me frati calabrisi, di tassare le domaggi, baci a tutti gli amici. Chi partire una città e chi partire un paese, e sta valigia non esti più i cartoni, sentifici, sacrifici. Tu non si sperdi, so radici, cammina a testa iata da schina, e non si schianta se non viri più sulla mattina. Ma tu 2000 ora viaggiano in prima stazione, Termini o Tiburtina, Roma, Milano, Torino, supportano rumani in temani, come canto si partiva pupani. Ora sto pane non manca, ma me gente si stanca, si candranghe da vola percentuale come a banca. E andiamo a svendere a professionalità sono migliaia di giovani che tassano qua. Un cuore sano, picchi su emigrati, ma ogni anno torna nel suo piglio non tastati. Calabria mia che non cambia mai niente, anci la mano a sti figli se mi senti. Eppure voi che mi sentite che facite, piazziamo sti bastoni e scacciamo sti parassiti. Calabria mia, dammi la forza per restare qua. Calabria mia, dai una speranza a chi se ne va. Calabria mia, mai la verità dai racconti dei vecchi briganti e gli occhi distanti di questa città. Come cartella al mio tre voglio sentire un urlo fortissimo, 1, 2, 3. Yo, hey, poi in fondo io sono sempre un rapper. Calabria mia, a Gallico quanti siamo? L'hanno bruciato ma noi lo ricostruiamo. Questa gente è potente ed è bella, tutti uniti per il centro sociale cartella. Ricordo ancora 10 anni fa i compagni quando toglievano le erbacce in questi posti qui. Io continuo a fare rime, a fare sempre danni, e sti massicci 10 anni dopo sono ancora qui. Reggio resiste, non è tutta mafia e fascismo, te lo dico adesso con le rime fin quando posso. Per questo zero intolleranza, zero egoismo, perché io quando arrivo qui mi sento scosso. Questo è freestyle, non le ho scritte sul foglietto, le rime le metto in ordine nel mio cervelletto. Te l'ho detto, una dedica speciale a sti massicci che voglio vedere sulle mani alzare il right. Questo è Calafro nella casa, non è la prima volta, rompono un portone, abbiamo 100.000 porte. Se vuoi sentirmi sulle mani un'altra volta ancora, ehi, resistenza ora. Grazie a tutti massicci!